Criste, Criste, Criste è lei so. Criste è lei so. Criste è lei so. Criste è lei so. Criste, Criste, Criste, Criste è lei so. Christe, eleison, eleison, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe, eleison. Thank you. Misere, misere, exquisites, ad exlatris, exquisites, ad extrapatris, miserere, miserere, miserere.

Mm-hmm.